già pronta, padelle sul fuoco, mai sono come anguille, picciò cambio gioco e mando a fanculo. Che il tuo mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele, ne sono piene di facce serene, rassicuranti, che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene, che si offende se dico pene, e poi votano a Berlusconi, Prodi di Mirale, ma fini, mo sopporto pure a Bonini, il Papa mo cattivo e morto, e tutto quello che c'ho da dire, a torto ragione, il fatto è che non so per bene, la mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole, tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni, e sono tanti anni che voglio sabotare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare. Solo dei soldi, a tuo bene non pensa ma a quello dell'azienda. Sì, no, no, tu non credere a chi parla di marketing quando parla dei sogni e delle tue passioni. Le strategie da manuale su di me non le puoi applicare, quante volte lo dovrò spiegare, tu usciterai a precisare che dalle folle mi farai clamare, VIP potrò diventare, tutti al circo a scenografare con la tigre di domatore. Ma che cosa ci posso fare se non mi lascia ammaestrare? Sì, lo so che se sto a sentire tanti soldi mi farai fare. Sai la guida cos'è? No, no, non è un serpente, né non saranno pesce, è un modo di vivere. Scivola, zomba, un pesce sparisce, questo capitone a storia non fornisce. Mai, mai, mai, mai, mai, mai, non mi avrete mai. Di chi no, non ne sa su chi sei, vuol vedere solo gli zeri, i numeri sull'airplay. Non fidarti di chi vuol farti fare ciò che non vuoi, ma pensa solo a quello che senti, i denti stretti per noi. Penso che questa situazione attuale non ti fa capire bene dove si va, ma la mia necessità vitale è di far capire che così non va qua. Vedi bene adesso chi mette un veto sull'espressione, che ha il potere decisionale, vale il veto della canzone. Oggi so di avere un valore, un fuoco brucia per loro, gioco la merdina dal sottosuolo, so che viene dal cuore. Nasce quello che ti sceglie, la musica non capisce, preferisce tutta la merda che rientra dentro le soglie. Una guida cos'è? Pensa se mi fai re, scivola sulle basi, frasi che colpiscono te. Pensi che puoi fermare questo quando metto estro in un testo, chi mi ascolta capisce il senso, non avrete mai mezzo. Il concetto vale pure i domo.